E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa, la prima puntata chiaramente della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dai mercati, come avete sentito sono obiettivamente tutti in tensione i mercati delle cosiddette commodities, petrolio ma non solo, e anche l'oro è andato a un nuovo record storico. E faremo un punto su questo, sui rischi che in Cina invece si corrono, si temono, di un'inflazione troppo alta. Come va il prezzo della benzina? Ve lo stanno raccontando questa mattina i nostri GR, va male, nel senso che continua a aumentare. Non tornerò più sulla polemica tra prezzo del petrolio in euro e prezzo della benzina. Molti hanno scritto contestando i dati, ragazzi, a noi risultano questi dati, non so più cosa fare, tanto non ne usciamo. Parleremo invece e dedicheremo una puntata per buona parte anche al mondo femminile, all'altra metà del cielo, come si chiamava una volta, non tanto e non solo perché domani è l'8 marzo, ma perché avremo ospite anche il primo firmatario, l'onorevole Lella Golfo, della legge sulle quote rosa, che molto sta facendo discutere, quella che impone alle società nell'arco di pochi anni di arrivare ad almeno un 30%, le società quotate, 30% di donne nei consigli di amministrazione. Sono insorti alcuni vari esponenti dicendo dell'economia, della finanza, della politica, dicendo come si fa, è un obbligo sbagliato. La stessa Confindustria si è mostrata tiepida, per essere buoni, sul tema, dicendo bisogna dare tempo alle società per adattarsi. Ne parleremo appunto con chi questa legge l'ha voluta, intesa come proposta chiaramente di legge. I mercati come vanno? I mercati vanno sostanzialmente bene a Milano, meno bene nelle altre piazze europee, nel senso che Parigi perde lo 0,40%, Francoforte perde lo 0,1%, Londra è invariata, l'America perde lo 0,26%, Milano invece guadagna, non tantissimo, ci mancherebbe, più 0,2%, con in particolare Bulgari più 60%. E di Bulgari parleremo dopo i mercati. L'accordo annunciato per entrare nel colosso della moda, tra l'altro Bulgari diventerebbe a quel punto il primo azionista, ma dicevo, l'accordo annunciato ha portato il titolo in sostanza con quello che sarà il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto per entrare nel gruppo di Bernard Arnault, e mi riferisco a Louis Vuitton Moanessi, colosso francese del lusso, ripeto, più 59,16%. Era tanto che non vedevamo sull'S&P MIB un titolo fare il 59,16% di rialzo. Il secondo miglior titolo è Fondiaria Sai, più 8,80%, poi Tod's più 5,40%, l'Automatica più 3,20%, come Buzzi Unicem l'1,90%, la guadagna invece Finmeccanica l'1,70% e Steam Microelectronics. Su Bulgari cercheremo anche di capire, ben venga l'operazione, ci mancherebbe, però è un altro pezzo della moda italiana che se ne va all'estero, diciamo tranquillamente, sarà pure, diventerà pure il secondo azionista di Louis Vuitton Moanessi, ma insomma, dopo Gianfranco Ferré, che è finito al Paris Group di Dubai non più di un mese fa, il marchio Fendi, anch'esso finito da Bernard Arnault e quindi francese, Valentino, che da Gruppo Marzotto andò qualche anno fa al fondo di private equity per Mira Holdings, insomma i grandi nomi restano Armani, Dolce Gabbana, AF, ossia Alberta Ferretti, Trussardi, Biagiotti, questi sono i nomi che restano puramente italiani senza voler essere eccessivamente nazionalisti. 349-238-6666 per i vostri sms, e quindi le donne sul mondo del lavoro, i tagli invece alle scuole e agli asili, per tema di apertura, purtroppo il tema sta diventando già di strettissima attualità, le borse, la vicenda Bulgari e poi le quote rosa. E adesso le notizie in breve. sì, ha ragione un ascoltatore che scrive: sarebbe il caso di andare a vedere quante case d'affari, banche d'affari, analisti che sono sempre lì che danno giudizi sui titoli, avessero dato giudizi sul titolo Bulgari, perché insomma anche noi non ricordiamo dei gran giudizi come buy, come compra Bulgari prima di questa operazione che, ripeto, sta portando il titolo sul livello dell'offerta pubblica di acquisto. In questo momento siamo a 12,24 euro, venerdì aveva chiuso a 7,59 euro, capire. Andiamo avanti con le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Prima di arrivare alla benzina e al petrolio, altre notizie che riguardano e all'inflazione cinese, altre notizie che riguardano invece i mercati, perché, o meglio, le banche d'affari. Perché da un lato, nel fine settimana, abbiamo trovato poche notizie sui giornali di questo, ma insomma, il numero uno della Banca d'Inghilterra, della Banca Centrale Inglese, Mervyn King, ha duramente criticato il comportamento delle banche d'affari e dei banchieri dicendo, leggo testualmente, non hanno imparato nulla da questa crisi, dato che i bonus continuano ad essere staccati, gli affari si fanno sempre sulle spalle dei risparmiatori e la leva finanziaria, quindi l'aspetto più speculativo, è tornata ai livelli pre-crisi. La colpa è soprattutto degli atteggiamenti dei bankers che dopo 2 anni di remissione sono tornati a spendere cifre folli per feste ed altri eventi. Non l'ha detto un pericoloso comunista o un non so, il presidente di un'associazione di consumatori, lo ha detto il presidente della Banca di Inghilterra, il paese più liberale che c'è in Europa, quello dove il mercato regna sovrano, ha detto non hanno imparato nulla e fanno gli affari sempre sulle spalle dei risparmiatori con una leva finanziaria che è tornata ai livelli pre-crisi, questo perché sono tornati a spendere cifre folli per feste e altri eventi. Non a caso oggi la paga che la banca britannica Barclays, salvata dai contribuenti britannici in piccola parte, ha dato al suo numero uno supera i 10 milioni di sterline. Robert Diamond infatti avrà anche un super bonus da 6 milioni e mezzo di sterline. Noi da sempre diciamo che è giusto remunerare i vertici, ma nessun manager vale 270 volte lo stipendio del dipendente medio. Non ci prendiamo in giro. Nemmeno il genio, nemmeno Marchionne, visto che devo scrivere, nemmeno Marchionne. La Grecia, Moody's ha tagliato il voto al debito greco, portando l'outlook, ossia le prospettive negative. Si è arrabbiato, furibondo, il premier greco, che ha detto insomma è stata una decisione assolutamente ingiustificata, non riflette un'obiettiva e bilanciata valutazione delle condizioni a cui il paese sta facendo fronte. Non ci sono molti movimenti sui mercati. E adesso apriamo uno spazio che, se avanti così, saremo obbligati ad aprire più volte. Uno spazio dedicato alla cronaca quotidiana di cosa succede al petrolio, alle materie prime e anche alla benzina. Eh sì, perché nel giorno in cui l'oro è volato, nuovo record, $1,444 l'oncia, nuovo record storico, e in rialzo anche l'argento, $36 l'oncia, fa di nuovo notizia il prezzo del petrolio, sia in Brent, quindi Mare del Nord, petrolio inglese, che in WTI, quindi petrolio texano. New York, $106,48 al barile, in rialzo del 2%, siamo arrivati a $118 per quello che riguarda il Brent a Londra, e chiaramente l'effetto c'è anche se noi continuiamo a non seguirlo, c'è anche sulla benzina, €1,568. Abbiamo superato il massimo dal 2008. Io qui lo dico molto chiaramente che alcuni hanno contestato i nostri calcoli. Nel 2008 il petrolio è arrivato a $148 al barile con un euro che valeva un po' più di adesso, che siamo a 1,40, 38 e 39. Abbiamo fatto i calcoli, a noi ballano 20 euro di differenza sul prezzo attuale del petrolio pagato in euro. Questo è quanto. Poi tutto il resto dei calcoli, petrolieri, benzinaie, ognuno tira acqua al suo mulino, o meglio tira petrolio al suo mulino. 1200 euro a famiglia, quello che costerà secondo i consumatori in un anno la stangata dell'aumento del petrolio, che significa sì benzina ma significa anche gasolio da combustione. E nel frattempo la Cina si rende conto che le materie prime colpiscono anche la più grande, la più dinamica economia al momento. E che cosa dice? Dice insomma: l'inflazione è il nemico numero uno da combattere. In gennaio il caro vita ha raggiunto il 5% e il premier Wen Jiabao ha sottolineato i rischi che questo può comportare anche in termini di stabilità sociale. E tra l'altro Pechino è, penso, l'unico paese al mondo che ha bisogno di ridurre la sua crescita economica, il suo PIL, ce n'è adesso un po' a noi, infatti vuole portarlo all'8% e al 7% nei prossimi anni, non più al 10-11. E nel frattempo le banche centrali europee, proprio perché le materie prime sono così care, le banche centrali dell'Europa e la Banca Centrale Europea sono unite nel frenare l'attesa di inflazione e tutti si attendono che ad aprile i tassi aumenteranno. L'Euribor, il tasso interbancario a tre mesi, continua a salire, è all'1,172% in questo momento, l'Euribor a tre mesi, e si avvicina praticamente in un mese è salito allo 0,89%. Insomma, sta incamerando quello che sarà il rialzo dei tassi di interesse. Ad aprile, primo tema nel frattempo, quanto ha dichiarato oggi il ministro Brunetta, importante perché ospite di Oscar Giannino, ha ricordato quanto potremmo risparmiare con meno burocrazia, visto che poi parleremo invece dei tagli fatti perché non riusciamo a risparmiare. Sentiamo Brunetta i risparmi dalla riduzione della burocrazia in questo paese. Abbiamo approvato due regolamenti e pensate, ci sono risparmi per 1,5 miliardi di euro, 3.000 miliardi delle vecchie lire, di adempimenti da parte delle tante piccole aziende, dei tanti artigiani che non dovranno più riempire scartoffie su scartoffie, perdere tempo, dare da lavorare, questo mi dispiace, i loro consulenti, ma mi piace per le piccole imprese, e i loro consulenti faranno altro, perché sia in campo ambientale, acque reflue soprattutto, e sulla prevenzione degli incendi, le piccole imprese saranno trattate con un occhio semplificato e di riguardo. Il tutto, ripeto, non consentendo alle piccole imprese di inquinare o di produrre incendi, tutt'altro, anzi, questo migliora l'efficienza nella salvaguardia di questi beni fondamentali che sono l'ambiente e che sono la prevenzione degli incendi. Un miliardo e mezzo, secondo il ministro Brunetta, non abbiamo motivo per non credergli, che sarebbe quanto mai utile in questo periodo per i tagli, lo dico, non vogliamo polemiche subito, per favore, i tagli alla spesa sociale per il 2011. Salvo modifiche, è azzerato sia il fondo per la non autosufficienza, ossia le risorse, il fondo statale, per integrare le risorse degli enti locali per l'assistenza ai portatori di handicap, sia il fondo servizi per l'infanzia e asili nido. Visto che oggi parliamo di donne, donne al lavoro, donne che non lavorano, l'Italia sta messa peggio di tutti, l'avete visto oggi i giornali, quanto a tasso di occupazione femminile tra i 25 e i 54 anni per numero di figli, ci battono tutti, ci batte anche la Repubblica Ceca, la Bulgaria, la Slovacchia, la Slovenia, la Romania, hanno tutti più donne al lavoro di noi. Non in questa radio, insomma, qui si è messi bene, però. E dicevo, tra i temi per cui, che spesso vengono evocati per la mancata crescita delle donne sul lavoro e il mancato tasso di impiego delle donne nel mondo del lavoro, c'è quello del welfare. Allora, ecco perché ne parliamo alla vigilia dell'8 marzo. Il fondo dei servizi per l'infanzia e asili nido verrà tagliato. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali si ferma quest'anno a 275 milioni, la metà dell'anno scorso e quasi un terzo rispetto al 2009. Le dotazioni politiche per la famiglia, tutti parlano di famiglia in questo paese, da 185 milioni a 52 milioni. Per le politiche giovanili da 94 milioni a 33 milioni. E questo vuol dire che nel complesso l'insieme dei fondi sociali, che nel 2008 riceveva circa 2 miliardi di euro, oggi riceve circa 500 milioni di euro. Il miliardo e mezzo di Brunetta sarebbe perfetto adesso. E poi tagli per il personale docente nelle scuole. Il ministro Gelmini ha confermato che nel 2012 ci saranno 20.000 cattedre in meno, per cui dal 2009 al 2012 ci saranno oltre 90.000 i posti tagliati. Non è detto che sia sempre male, ci potevano essere anche dei doppioni, per carità. Principalmente sono uscite per pensionamento che non verranno rimpiazzate. La scuola, secondo il ministro Gelmini, reggerà comunque, perché l'organico era sovrabbondante. Secondo alcune stime, comunque, nell'ultimo anno 150.000 bambini non hanno avuto la possibilità di svolgere il tempo pieno alle elementari, e il prossimo settembre saranno 3.000 le scuole senza un dirigente stabile. Il tempo pieno serve alle mamme che lavorano, forse per questo che lavorano così poche donne? Solo in Lombardia si conteranno 2.415 insegnanti in meno, dopo che negli ultimi tre anni erano state già soppresse 4.000 cattedre. No, questo per dire che non è vero che nel pubblico impiego non si tagli, si taglia. E allora, qualche giorno fa in un asilo nido di Milano è successa una cosa stranissima che ci racconta la nostra Cristina Carpinelli. L'asilo è stato prima occupato dagli insegnanti e dai genitori per motivi economici, non per protestare contro il tipo di insegnamento, didattica che veniva effettuato in questo asilo. Sentiamo la nostra Cristina Carpinelli su questa storia. No, ma sai quello che fa incazzare di più? Quando ti dicono che hai capito male. Ma avete capito male? Ma tutti! Tutti quanti abbiamo capito male, ma siamo tutti intronati! Allora, mettiamo pure che siamo tutti intronati, sì. Che abbiamo capito male. Ma non sarete anche voi che non vi siete proprio spiegati benissimo? Qualche giorno fa, in un asilo nido di Milano, è successa una cosa mai accaduta fino ad oggi. L'asilo è stato occupato. A manifestare erano le insegnanti e i genitori. Si trattava di un asilo nido a gestione convenzionata. È quando il comune si avvale di strutture private nelle quali una quota di posti nido viene riservata ai bambini provenienti dalle graduatorie comunali. Ultimamente si sta puntando molto su questa formula, perché dal punto di vista della spesa è più economica. Ma su cosa si risparmia? Sui contratti alle insegnanti. Contratti che vengono fatti dalle cooperative e che, a detta delle insegnanti, non garantiscono alcuna continuità e sottopongono le stesse a turni stressanti. A fare i conti è la stessa amministrazione comunale, che dice che un bambino in un nido accreditato costa 600 euro contro gli 800.000 di un bambino dell'asilo comunale. Ma questo risparmio, se calcolato sui contratti, ovviamente ricade sulla pelle dei bambini. Rita Viotti è uno dei genitori che più si è spesa su questo fronte a Milano. Queste ragazze, pur volenterose, ottengono dei contratti da parte delle cooperative veramente, con rimborsi vastissimi, perché si parla di qualcosa intorno di cifre che si aggirano intorno ai 7 euro e mezzo, 8 euro all'ora. E quindi è impensabile che questo non vada anche a scapito della qualità. Oltretutto aggiungo, ritornando al tema dei disabili, che proprio nel nuovo bando di accreditamento che è di prossima uscita si parla anche di un rimborso dovuto alle cooperative nel caso della presenza di bambino disabile, di un rimborso in più forfettario di 180 euro. E quindi come genitore mi domando come questo possa poi compensare questo bisogno di un insegnante presente sul bambino disabile. A tutto questo si è aggiunto da dicembre un nuovo capitolo, sancito dalla Carta dei Servizi stipulata dal Comune di Milano e che prevede un insegnante ogni 8 bambini. Prima l'insegnante era ogni 6 bambini. 2 neonati in più o in meno fanno una bella differenza. Inoltre, quest'anno la Carta dei Servizi è stata approvata il 23 dicembre, senza il coinvolgimento dei genitori eletti nei consigli di scuola. E poi, altro tema caldo, quello dei disabili. Quel che è accaduto negli ultimi anni, in virtù di questa congiuntura economica non certamente favorevole, è accaduta una progressiva diminuzione del monte ore degli insegnanti di sostegno che quindi dovrebbero affiancare le sezioni dove sono presenti dei bimbi disabili, perché è importante ricordare che appunto il sostegno si intende soprattutto all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia, come un sostegno all'intera sezione. Quindi diciamo che la lotta costante poi da parte dei genitori è anno dopo anno nella verifica del monte ora effettivamente affidato a ciascuna sezione, è cercare di rivendicare la tutela del diritto del proprio bambino. Che... Quanto costano questi insegnanti di sostegno? Allora, sappiamo che l'assestamento di bilancio ha portato ad un incremento di 700.000 euro, quindi costano all'amministrazione nella misura in cui c'era stata anche una sottostima con l'avvio del nuovo anno educativo. La sottostima significa che il Comune non ha verificato il numero reale di bambini disabili presenti nei nidi e nelle materne comunali. Perché? Negligenza o scelta strategica? Nessuno risponderà mai a questa domanda. Resta il fatto che oggi succede che alcuni bimbi disabili non abbiano garantito il sostegno. I milanesi, che hanno interesse a seguire la questione della scuola dell'infanzia, ma non sono gli unici, si sono uniti in rete e ce ne sono diverse. Mi chiamo Gianni Manfredini e sono un genitore di 4 figli. Mi sono parecchio interessato a quello che è il mondo della scuola. Essendomi candidato e essendo stato eletto, ho partecipato a questo coordinamento di genitori che è nato nel 2008, che si chiama La Laterna che vorrei, e che è un coordinamento di genitori che si raggruppa all'interno di tutta la città e cerca di coordinarsi all'interno della vita scolastica per riuscire a diffondere il più possibile le informazioni e trovare un modo comune per dialogare con l'amministrazione. Noi come genitori stiamo cercando di proporre, di porci in maniera attiva nei confronti di queste problematiche o comunque degli stimoli che cerchiamo di dare all'amministrazione. Vero è che non tutti questi stimoli, queste proposte vengono sempre accolte. Resta il fatto che questo è un sistema innovativo, nel senso che fino a 10 anni fa era difficile che l'amministrazione comunale venisse tirata proprio per la giacchetta su alcuni temi in maniera così rapida e in maniera così forte e numerosa. La rete che siamo riusciti a formare in effetti è innovativa, nasce appunto dal fatto che le nuove tecnologie ci consentono di comunicare anche molto più rapidamente assieme, e il fatto che tutti i genitori eletti nei consigli di scuola siano collegati, facilmente comunicabili tra di loro, consente di far circolare le informazioni, di condividerle e di trovare un'omogeneità di idee e comunque anche di problematiche da portare avanti all'amministrazione, che quindi non si limitano al problema della singola scuola, ma riescono ad individuare quelle che possono essere delle criticità o anche delle positività della scuola di Milano. Perché questi genitori si prodigano tanto? In realtà, quasi tutte le cose che otterranno non saranno godute dai loro figli, che nel frattempo inizieranno un altro ciclo scolastico. Si prodigano tanto perché, come si diceva un tempo, libertà è partecipazione. Grazie alla nostra Cristina Carpinelli. E te pareva che alcuni geni buttano in politica anche il tema degli asili? Io mi auguro che non abbiate figli piccoli d'asilo. Tra l'altro, la polemica sulla scuola pubblica e scuola privata a me interessa veramente poco. Lo stesso Berlusconi poi ha fatto marcia indietro. Una cosa va detta però: esiste un test che si chiama PISA, il test che viene usato in tutto il mondo, non in Italia, e sta per Program for International Student Assessment. Ebbene, il test PISA, che è quello che viene usato per capire quanto prepara una scuola, università, liceo, scuola superiore, scuola media, vede la scuola pubblica italiana preparare meglio della scuola privata. Chiaro che dentro questo ci sono mille differenze, però sono 415 punti sulle conoscenze matematiche contro 305, 421 sulla comprensione del testo contro 400, 430 sulle competenze scientifiche contro 395. Quindi va dato atto che comunque la scuola pubblica, oltre che la scuola privata, in questo paese tiene e prepara nonostante tutto. Domanda di un ascoltatore: perché ne parliamo? Perché si dice sempre che bisogna investire in ricerca, sviluppo e formazione, e allora parliamo anche di formazione. E poi arriviamo alla borsa. La borsa ha chiuso positiva anche e soprattutto per Bulgari. Non a caso Milano è l'unica leggerissimamente positiva, più 0,1%. Le altre borse europee hanno fatto meno 0,70 a Parigi, meno 0,20 a Francoforte. E ancora, per quello che riguarda Londra, invariata. L'America perde lo 0,40%. Tutto questo, diciamo, su Bulgari. Bulgari alla fine ha chiuso vicino al livello dell'offerta di scambio con Louis Vuitton Moanesi. Stiamo parlando quindi di un titolo che in questo momento ha guadagnato il 59,4%, ultimo prezzo a 12,1 euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora raccontiamo, se vogliamo vederla male, un altro pezzo del lusso italiano che se ne va, della moda italiana che se ne va. Se vogliamo vederla bene, la gioia di migliaia di azionisti della Bulgari. E lo facciamo con, da un lato, il dottor Simone Ragazzi, che è analista per Centrobanca, Gruppo Bibanca, analista del settore lusso. Buonasera, dottor Ragazzi. Buonasera. E dall'altro con la collega Paola Bottelli, che firma da sempre, a Sole 24 Ore, i pezzi sulla moda e sul giro d'affari della moda. Paola, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Paola, raccontaci questa operazione. Intanto, ma era nell'aria, per voi che lavorate con tutti i big della moda, che la famiglia Bulgari avrebbe ceduto la sua quota, cioè il 50,4% nel caso specifico a Louis Vuitton Moanesi e quindi Arnaud? No, la famiglia Bulgari aveva sempre smentito di essere intenzionata a cedere l'azienda, ancora nei giorni scorsi quando c'erano stati dei rumor riguardanti la PPR di François Pinault, che è il grande nemico di Bernard Arnault, certo, in Francia. Però era la LVMH che aveva un grande bisogno di rafforzarsi nel segmento orologi e gioielli, perché aveva una dimensione ancora troppo piccola, sotto il miliardo di euro di ricavi nel 2010, rispetto a competitor del calibro di Swatch Group, che è il numero uno al mondo, di Richemont, che controlla tra l'altro il marchio Cartier, ma anche penso a Piaget, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels e tanti altri, e la stessa Rolex, che è un'azienda indipendente. Sono tutte aziende da svariati miliardi di euro di ricavi all'anno. Quindi Louis Vuitton aveva bisogno di incrementare la sua taglia, e con questo scambio con Bulgari raddoppia la sua dimensione e supera i 2 miliardi di euro di fatturato pro forma, chiamiamolo così, nel 2010. Sì, in sostanza, al di là dello scambio tra i due, cioè Louis Vuitton emetterà 16 milioni e mezzo di azioni, in cambio riceverà 152 milioni di azioni di Bulgari. Quello che è importante per chi ascolta è il valore a cui vede Louis Vuitton il titolo Bulgari. Valeva venerdì scorso a chiuso a 7,59 euro, loro hanno offerto 12,25 euro, e siamo quasi al 65% in più. Non a caso solo oggi il mercato ha fatto salire il titolo del 59%, era anni che non vedevamo una cosa del genere. Detto questo, vorrei sapere, dottor Ragazzi, questa operazione come la valutate voi? È chiaro che il titolo si è mosso sul valore dell'offerta pubblica, non poteva far altro, però abbiamo Bulgari, che è uno dei leader mondiali nel mercato dei gioielli, capitalizza 2 miliardi e 3 all'anno, giro d'affari di 1 miliardo, 280 punti vendita, anche gli alberghi a Milano, Bali e a Londra l'anno prossimo. E dall'altra parte abbiamo Louis Vuitton, cioè un multinazionale, 54 miliardi, 20 miliardi di giro d'affari, praticamente a 2545 punti vendita, 83.000 dipendenti. Se vi leggo i marchi c'è da prendere paura, perché dentro il gruppo Louis Vuitton Moanesi ci sono Dior, Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Givenchy, Donna Karan, Tag Heuer, De Beers, Moët Chandon, Veuve Cliquet, e poi il gruppo Arnaud, che è l'azionista di controllo col 47% del capitale. L'operazione, Ragazzi? Sì, l'operazione sicuramente, come menzionava lei, è un'operazione sicuramente importante. Giusto per aggiungere qualche altro dato, Louis Vuitton pagherà complessivamente 4,3 miliardi di euro per l'operazione. Per gli azionisti di minoranza è sicuramente un'operazione altrettanto importante, perché si tratta del 60% a premio rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì, e quindi quest'oggi appunto il prezzo, come diceva lei, riflette l'offerta appunto fatta. fatta, e dal punto di vista un po' più tecnico, quindi un po' valutativo, è un'operazione molto ricca, quindi hanno sborsato veramente tanti soldi, poiché il Louis Vuitton ha pagato circa 45 volte gli utili prospettici di Bulgari sul 2011, giusto per dare quante volte? Mi scusi? 45 cioè, volte. Ha pagato 45 il rapporto prezzo-utile? Prezzo-utile 45 volte però, circa, prospettici sul 2011, basti pensare... È un prezzo-utile che ricorda più la bolla della New Economy, se mi permette, che non una valutazione di un gruppo del lusso che fa orologi. Sono multipli veramente pazzeschi, se ci pensi che il settore, quindi parliamo di settore lusso, ad oggi, ai prezzi di oggi, sta circa 20 volte gli utili 2011. Allora, spiego a tutti, quando si compra un titolo, si fa una valutazione su un titolo, si dice lo compro a un rapporto prezzo utili attesi di un certo tipo, utili di un certo tipo. Di solito nel mondo normale, mi corregga se sbaglio, dottor Ragazzi, va tra i 10, 12, 15, cioè uno compra 10, 15 volte gli utili, giusto? Sì, più basso si compra, ovviamente meno si paga. Beh, questo guardi, io capisco che lei mi consideri una specie di idiota, ma ci arrivavo, anch'io su questo, però dicevo, il rapporto dipende è... Dipende dai settori. Certo, nei settori allora... maturi è 10-12, nei settori, come era una volta la New Economy, si arrivava a 70, vuol dire che tu compri una cosa 70 volte gli utili che ha fatto, quindi dovresti fare, se andasse avanti a fare solo quell'utile lì, ci metteresti 70 anni, in questo caso 45 anni a ripagarti dall'investimento. Qual è la scommessa, secondo lei, Ragazzi, che fa il gruppo Louis Vuitton? Sì, Louis Vuitton, la scommessa che fa, a mio avviso, per pagare un prezzo così elevato è dovuto al fatto che inserisce nel proprio portafoglio gioielleria, che era, come si accennava prima, forse un po' l'anello, tra virgolette, debole del gruppo, un brand di assoluta qualità, qual è il gruppo Bulgari, con prospettive di crescita, soprattutto nei mercati emergenti, quindi parliamo soprattutto di Cina, veramente molto, molto forti. Se parliamo di Louis Vuitton nel portafoglio di brand nel settore della gioielleria, abbiamo brand quali Tag Heuer, Zenith, Hublot e De Beers. Come si accennava prima, aggiungere Bulgari al portafoglio gioielleria di Louis Vuitton significa raddoppiare il fatturato. Un portafoglio di coccodrillo, immagino. Sento una cosa, Ragazzi, però mi dica se lei ritiene l'operazione troppo cara, perché voi questo fate di lavoro, uno, e due, perché nessun analista prima l'ha ipotizzata? Ma in verità le speculazioni sul gruppo Bulgari ormai risalgono a vari anni, e a mio avviso già il prezzo di Bulgari, già per esempio venerdì era un prezzo già che incorporava un certo appeal speculativo, quindi il deal, probabilmente la speculazione era già nell'aria, che si trattasse di Louis Vuitton e che il deal potesse chiudersi in così poco tempo ha ovviamente sorpreso tutti. E quanto non chiamiamola deal, chiamiamola operazione, sì. Accordo. Quanto all'operazione, il prezzo le sembra congruo? L'operazione, a mio avviso, è un'operazione cara, però sicuramente ci stiamo andando a comprare, quindi Louis Vuitton si va a comprare un brand importante, qual è il brand Bulgari, con prospettive di crescita fantastiche, okay, soprattutto nei mercati emergenti, quindi il prezzo è caro, però è giustificato, a mio avviso, dalle opportunità di crescita, soprattutto nei mercati emergenti. Se non si pagano prezzi cari nel settore del lusso, Paola, dov'è che dobbiamo pagarli? Grazie all'analista di Centrobanca, quindi Gruppo Vibanca, Simone Ragazzi. Paola Bottelli, abbiamo capito dall'analista, alcuni contestano che abbia usato troppi inglesismi, fidatevi, ne ha usati anche molto pochi rispetto a quello che fanno di solito, e un po' li abbiamo corretti, siamo d'accordo che competitor si può dire concorrente, buyer si può dire acquirente, vendor si può dire venditore, tutto tranquillo. Paola, brevemente, Gianfranco Ferré ha venduto un mese fa al Paris Group di Dubai. Fendi è andato anche lui a Bernard Arnault, quindi il gruppo Louis Vuitton Moines. Dieci anni fa, sì, certo. I Marzotto, 3-4 anni fa, vado a memoria, cedettero marchio Valentino al fondo per Mira, con sede nelle isole del canale britannico. Gucci e Bottega Veneta fanno parte del gruppo Pinot Printemps Prédoux, quindi Pinot, Prada, e anche Sergio Rossi Scarpe, giusto. Pucci è pure passato sotto LV, e lui ha avuto Moines, sì, Pucci, sì. Gucci, Pure, pure, beh, il marchio star marchio del Gucci Group francese ormai. Esatto, Gucci fra un po'. Insomma, io ho fatto il calcolo, non ci capisco molto, ma ho fatto il calcolo che restano Armani, Dolce Gabbana, AF, ossia Alberta Ferretti, Trussardi e Biagiotti più... diciamo Prada che si è quotata a Hong Kong, come insomma resta italiana. Si quoterà a Hong Kong. Si quoterà, hai ragione. Stiamo perdendo pezzi del lusso italiano? Stiamo perdendo un po' tutto, la nostra identità di Made in Italy se ne sta andando un po' a pallino. So che il ragionamento è c'è la globalizzazione, non dobbiamo avere paura, però certo a me dispiace quando succedono queste cose, anche se questa è sicuramente una gran bella operazione per la famiglia Bulgari e per gli azionisti di minoranza. Tu hai citato una serie di aziende italiane che ancora sono a controllo italiano, ne hai citate alcune grandi e altre piccole, perché ci sono l'AF è quotata in borsa, però è un'azienda ancora di diciamo medie dimensioni. Rimangono ancora italiane la Max Mara, che invece è un colosso, la Diesel di Renzo Rosso, che è un colosso. Però certo, se andiamo avanti di questo passo, soprattutto sui marchi più piccoli che hanno avuto grosse difficoltà a galleggiare sul break even negli ultimi anni, che sarebbe scusa, hai ragione, se a galleggiare sul punto di pareggio, molto difficile. Queste potrebbero essere ormai nel mirino dei grandi gruppi. C'è anche da dire che ormai è il mondo del lusso è una specie di Champions League, Coppa dei Campioni, come si diceva un tempo. Alla Champions League partecipano il Real Madrid, il Chelsea, l'Arsenal, l'Inter e il Milan. Tutti gli altri fanno i campionati nazionali che ormai contano poco o nulla. E nel lusso è tale quale. Ci sono pochissimi ormai che possono scrive un ascoltatore competere. Che ho dimenticato, Tod's, Luxottica, avete ragione. L'occhialeria è italiana, abbiamo appena fatto il tema la settimana scorsa. Tod's, è vero che sì, ci mancherebbe, è italianissima, però qui parliamo di lusso, lusso, lusso, lusso estremo, perché Bulgari non fa lusso, diciamo, medio-alto. È sicuramente posizionato nel lusso. Sicuramente. Allora, anche dopo che ha acquisito due manifatture di orologi molto importanti, Gerald Genta e Daniel Roth, che sono proprio il top di gamma nella produzione di manifattura di orologi che costano decine, se non centinaia di migliaia di euro. Sì. Una domanda, il prezzo pagato, perché l'analista diceva è alto, però insomma... con questa acquisizione, acquisendo Bulgari, il gruppo Louis Vuitton, Moanesi, riesce ad avere tutta la parte orologi che prima non aveva, quindi, ma insomma, 45 volte gli utili è un prezzo che ricorda a me la bolla della New Economy. No, siamo tornati agli anni 2000, cioè negli anni, 10 anni fa, gli anni d'oro delle acquisizioni nel mondo del lusso. Non dimentichiamoci che tutto è nato proprio da un'incursione di Prada, Bertelli nel capitale della Gucci, che poi ha portato all'arrivo di Bernard Arnault come socio di Bertelli, a Pinault come cavaliere bianco in difesa della Gucci. A quell'epoca i multipli che si sono pagati erano a 40, 45 volte, 50 volte, come questo. Secondo te, e concludiamo, è l'effetto Cina, India, Brasile, cioè i nuovi ricchi, 150 milioni di cinesi che hanno potere d'acquisto simile a quello europeo ormai, cioè si sta creando un continente Europa 2 quanto a potere d'acquisto? Cina sicuramente incide tantissimo. Nel caso di Bulgari, nel primo bimestre del 2011 hanno fatto più 25% di fatturato e credo un più 47% in Cina addirittura. In questo momento la Cina è il mercato più importante per la Bulgari, essendo un marchio estremamente riconoscibile, chiaramente è una leva importante per svilupparsi ulteriormente. Sì, e va però... e va però fuori, fuori dall'Italia. Questo un po' ci dispiace, contenti, ripeto, sia i francesi di Louis Vuitton che gli azionisti di Bulgari, che oggi hanno guadagnato il 60% in borsa. Grazie a Paola Bottelli del Sole 24 Ore. Invece grazie, saluto e ringrazio il collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, come sempre facciamo il commento di borsa, anche se buona parte della borsa oggi si chiamava Bulgari. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. L'andamento di Tod's più 5,60% e di Casa Damiani più 7,34% si chiama effetto Bulgari? Sì, sicuramente. Proprio la valorizzazione di Bulgari data dall'operazione con LVMH che avete appena ricordato, si parla di un valore di circa 3,7 miliardi, ha fatto alzare improvvisamente le quotazioni anche di tutte le altre società del lusso. Gli altri titoli, visto che Tod's si è mossa in quel senso, più 5,60% e anche Damiani più 7% l'effetto Bulgari. Paolo Paronetto, molto bene oggi, però anche Fondiere Assai, più 8,60%, superato l'effetto Consob? Sì, esattamente, il titolo di La Verità era partito in deciso ribasso per poi invertire la rotta e chiudere appunto tra i migliori, tra le blue chip milanesi, proprio dopo il verdetto della Consob che, lo ricordiamo, lo ha condizionato al lancio di un'OPA suprema fino ai fondi Ariasai, l'ipotesi di ingresso di Groupama nel capitale di Premafin con una quota circa del 17%. Il mercato attende di capire quali saranno le prossime mosse sia dei francesi sia della famiglia Ligresti, e al momento è stato quindi preda della speculazione. C'è chi ipotizza possibili passi indietro della famiglia Ligresti nel controllo di fondi Ariasai, e chi invece mette in campo la possibilità di una cessione di alcuni asset a partire dalla controllata Milano Assicurazioni per mettere in sicurezza il gruppo, nonostante il possibile mancato ingresso a questo punto dei francesi di Groupama. Milano Assicurazioni infatti è stata tra i titoli migliori al di fuori del FTSE MIB con un rialzo del 5,26%. Ancora sui titoli invece andiamo a vedere i peggiori. Bene oggi anche Boots Unicem più 3,24, Pirelli più 2, Enel Green Power più 1,90, come Finmeccanica, Di Assorin più 1,70, Steamark Electronics più 1,5, Mediolanum più 1,3%, Fiat debole meno 0,50%, Fiat Industrial e non Fiat Auto. Anche Eni si è mossa poco nonostante il record del petrolio, più 0,20%, Enel invece in negativo meno 0,24%. Un ultimo commento lo vorrei su Italcementi da un lato e Boots Unicem dall'altro. Sì, Italcementi venerdì al mercato chiuso ha diffuso i risultati di bilancio che sono stati apprezzati dal mercato nonostante un lieve calo sia per il fatturato che per gli utili. In particolare a colpire positivamente è stato l'andamento nella riduzione dei costi, che nel 2010 è stato superiore del 36% rispetto alle previsioni della stessa società. Gli investitori hanno quindi premiato i titoli Italcementi, che hanno chiuso in rialzo del 4,64%. E hanno trascinato rialzo tutto il settore, infatti anche Boots Unicem, come ricordavi tu, è stato tra le migliori nelle blue chip guadagnando il 3,24%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. E visto che siamo alla vigilia dell'8 marzo, tra l'altro domani sarà il 100° anniversario della Giornata Internazionale delle Donne, abbiamo aperto il programma sui tagli agli asili nido e in generale alla scuola, che portano l'Italia, ripeto, in Europa ad essere sotto paesi come la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Romania, la Slovenia. Da noi il numero di donne che lavorano con un figlio, con due figli, con tre figli è sempre in fondo alla classifica, ma questo è un fronte. Poi c'è l'altro fronte, anche quando le donne lavorano non riescono a fare la stessa carriera degli uomini. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una labile leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento muta d'accento e di pensier, e pensier, pensier. L'abbiamo tenuta un po' più a lungo del solito, ma insomma era Pavarotti nel 1973. E Rigoletto, chiaramente fatemi fare il Duca di Mantova, fatemelo fare con Lella Golfo, che è la presidente della Fondazione Bellisario, deputata del PDL, che è prima firmataria della legge che è passata sotto il nome di Quote Rosa, ma adesso ha cambiato anche nome, si chiama Quote di Genere. Presidente Golfo, buonasera. Buonasera a tutti. La sentiamo un po' distante. Grazie anche alla coordinatrice del gruppo Donne Manager di Manager Italia, ossia l'associazione che riunisce le dirigenti, i quadri del terziario. Sono 35.000, molte, non abbastanza donne forse. Marisa Montegiove, buonasera anche a lei. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, vediamo, cioè, vorrei fare il Duca di Mantova e quindi anche l'avvocato del diavolo con una e con l'altra. Onorevole Golfo, la legge ha cambiato nome, si chiama quote di genere, perché si immagina che se in un consiglio di amministrazione ci siano solo donne, il 30% andrà agli uomini. La legge prevede infatti questo, l'obbligatorietà per le società quotate di avere nei collegi sindacali, nei consigli di amministrazione, il 30% minimo di donne, un periodo transitorio con sanzioni su cui si è trovato l'accordo, no? Praticamente dopo due diffide, non deciderà subito, ma dopo due diffide con un tempo massimo di 7 mesi dovrà rispettare la legge. Non c'è intesa su quando entrerà in vigore la legge e che gradualità avrà. Sicuramente domani al Senato potrebbe arrivare via libera alla proposta di legge. Tra l'altro è una proposta bipartisan, perché l'ha scritta lei come PDL e Alessia Mosca come PD. Prima critica: è una legge completamente antimeritocratica, perché uno nei CDA ci entra non perché donna, uomo, italiano o francese, ma perché è bravo. Ma non sono molto d'accordo, perché questa legge nasce da una esigenza reale. La prima donna che è entrata in un consiglio di amministrazione in una società quotata risale al 1932. Oggi siamo a quel misero 6,7%. Un calcolo fatto dal 2000 al 2010, abbiamo visto che le donne, la percentuale sale al 2% in 10 anni. Quindi non è un capriccio delle donne, ma questa è una necessità. D'altra parte, nel nostro paese il 60% di donne è laureato, sappiamo che le donne studiano di più, in magistratura mi pare che hanno fatto proprio un percorso notevole, proprio perché io sono convinta che dove c'è il concorso le donne vincono. Ma nei consigli di amministrazione non si entra per concorso, si entra per qualcuno che decide per te. Quindi questo è lo stato dell'arte. Io credo che questa legge necessita non alle donne, ma al paese, alla nostra economia, e viene proprio ormai da tutta l'Europa. Io recentemente ho firmato insieme al commissario europeo, al vice commissario europeo, la signora Reding, un appello che lei lancia all'Europa, a tutta l'Europa dei 27 paesi, che devono adeguarsi, perché se no le donne non li facciamo crescere, e se non crescono le donne non cresce il paese. Allora, io eviterò di non darvi di dati su stime su quanto crescerebbe l'economia se vi fossero più donne, addirittura in agricoltura, dice la FAO, se aumentasse il numero di donne che lavorano in agricoltura, dall'agricoltura rosa, ci sarebbero 150 milioni di affamati in meno. Le dico però quello che pensano le imprese lombarde, è uscito infatti una ricerca della Camera di Commercio di Monza e Brianza, il 50% ha definito le madri molto assenteiste. Domanda, onorevole Golfo, lei è rimasta sorpresa della posizione tiepida di Confindustria sul tema? Cioè, pur avendo un presidente donna che è Marcegaglia, un presidente dei giovani donna che è Federica Guidi, la Confindustria ha detto attenzione, si rischiano distorsioni nei consigli di amministrazione. Sorpresa? A me è dispiaciuto molto, mi è dispiaciuto come donna, come presidente di un'associazione che rappresenta le donne, però io credo che poi Emma Merciagalli ha voluto dire che non è del tutto contraria a questa legge, ma faceva qualche rilievo sulla sua attuazione, e forse si può anche discutere, però il fatto che dopo questa piccola apertura che c'è stata da parte dell'ABI, che lei non ha sentito proprio il bisogno di dare un segnale, questa è la cosa che forse è più dispiaciuta alle donne, non all'Ella Golfo. Peraltro sto vedendo un sacco di agenzie in questo momento che il segretario generale della CGIL, la Comus, si è dichiarata a favore. Anche la stessa Coppola, partecipando a questo incontro, ha sostenuto che Confindustria non è del tutto contrario, ma insomma avrebbe preferito forse una gradualità un po' diversa rispetto a quella che prevede la mia proposta di legge. Io credo però che domani in Commissione di Finanze del Senato si possa raggiungere quell'equilibrio tra maggioranza e opposizione per far sì che questo 8 marzo non sia l'8 marzo della mimosa, ma che sia l'8 marzo di impegno nei confronti. Sì, adesso ci arriviamo perché ho il traffico e sono in ritardo, poi vorrei sentire però anche chi la pensa in maniera un po' diversa da lei, come la dottoressa Montegiove. E abbiamo anche varie dichiarazioni, lei citava la Coppola, Alessandra Coppola è vicepresidente di Confindustria, donna anche lei, oggi infatti si è discusso con la Camusso, la Coppola, la Meloni, del ruolo delle donne. Comunque, traffico! Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per il tema, sul tema delle quote rosa, o meglio, come si chiama la legge adesso, lo ricordo ancora una volta, le quote di genere. Allora, dottoressa Montegiove, mi faccia fare il Duca di Mantova anche con lei, perché l'obiezione che viene fatta spesso è: ma insomma, in questo modo non si premia il merito, se tu obblighi le aziende ad avere almeno il 30% di donne nel consiglio di amministrazione, fa entrare anche persone che non hanno il merito per entrare lì dentro. L'obiezione però è: non è che il 30% degli uomini o tutti gli uomini che sono nei consigli di amministrazione abbiano il merito. Spesso siedono in 10, 15, 12, 7 consigli di amministrazione diversi solo perché chiamati lì per cooptazione, ma non sempre per merito, o no? Guardi, lei mi ha fatto una domanda, ma si è già dato anche la risposta. È esattamente perfetto. Così. Il merito è sempre quello che, tra l'altro, come gruppo donne abbiamo ritenuto fosse basilare sia nelle carriere professionali che nelle designazioni nei CDA. E forse se noi spingiamo per questo cambio culturale che tutti noi ci auguriamo con questa legge, io spero che veramente il merito sia la base di queste scelte sia per le donne ma anche per gli uomini, quindi un'attenzione maggiore anche nelle designazioni degli uomini. Ma cos'è che non le piace della legge? Perché Lella Golf ha detto in sostanza: sì, ma se aspettiamo i tempi italiani in cui la gerontocrazia impera, certo, a tutti i livelli economici, politici, abbiamo fatto il 2% di quota in 10 anni per arrivare, certo, a un livello accettabile, io a quel punto sarò ampiamente in pensione, forse nemmeno vivo. Ma guardi, dottor Barisoni, io le dirò che se lei mi avesse intervistato 2 anni fa, le avrei detto che ero contraria alle quote di genere, ma questo per la questione proprio del merito che noi come gruppo donne abbiamo sempre considerato fattore importante. Adesso come adesso io dico ben venga una legge come questa, anzi la sostengo, proprio perché in questi 2 anni, ed era questo l'obiettivo che noi come gruppo donne manager ci eravamo poste, non si è fatto assolutamente un salto di qualità. Noi ci eravamo dette nel 2008, vediamo se in 2 anni, al 2010, quando si doveva anche pensare a quelli che erano gli obiettivi di Lisbona, che ci mettevano delle percentuali ben fisse, importanti per la presenza delle donne nel mondo del lavoro, se queste percentuali verranno incrementate, se verrà incrementato la presenza delle donne nei CDA, bene, allora a questo punto sarà inutile chiedere una legge che richieda le quote di genere, ma questo non è avvenuto. Noi continuiamo ad avere quelle che io chiamo le figlie d'arte. Quindi anche lei che sì, certo, ho già capito, ecco. Le figlie d'arte in questo paese si capisce subito, quindi anche lei che doveva essere scettica si è convinta che ha ragione Lella Golfo. Assolutamente sì, allora, io spero proprio che questa legge vada avanti. Allora, perfino gli scettici ormai, le scettiche disperate dall'attaccamento alla carega degli uomini decidono che va bene una legge obiettivamente non meritocratica perché stabilisce una quota fissa. Presidente Golfo, onorevole Golfo, sui tempi di applicazione, perché lei ricordava che la Confindustria è preoccupata dei tempi, non si capisce ancora quanto tempo avranno le imprese quotate, 6 mesi, 12 mesi, non si può essere almeno un po' più morbidi lì? Allora, la mia legge prevedeva 6 mesi dall'approvazione, la sua, diciamo, la partenza. Allora, il compromesso adesso è a questo punto. Si parla del 15-20% nei primi 3 anni, primo mandato, diciamo, e poi si riparte con la mia proposta di legge, che è del 30%. Non il primi 3 anni non verrà sciolto nessun consiglio di amministrazione, perché verrà la responsabilità ricade alla Consob, il controllo, per poi passare direttamente alla mia legge. Per cui il compromesso io credo che si è già trovato. Quindi primi 3 anni controllo Consob e gradualità 15-20%. La cosa importante poi di questa legge, che non abbiamo detto nulla, che riguarda anche le società degli enti pubblici. Municipalizzate, ha ragione, anche esatto, le municipalizzate. Che è una cosa importantissima. Noi a conti fatti abbiamo visto che su 4.000 e rotte aziende entreranno una cosa come 1.900 donne, più 750 nelle società quotate. Io mi rendo conto che è una piccola rivoluzione o una grande rivoluzione. È chiaro che si discute, è chiaro che si ha anche un po' di paura. Allora, tutte quelle che dicono che le donne non sono preparate, allora la Fondazione Marisa Belisario ha lanciato questa raccolta di curricula eccellente. Noi ne volevamo 1.000, ne abbiamo già 1.300. Allora, a tutte le donne in ascolto, scrivete alla Fondazione Belisario se volete mandare il curriculum, perché è giusto che poi vi siano anche banche dati per accedere a questo. Io con Lella Golfo mi riprometto di parlare, perché mi interessa molto anche un altro tema, cioè la sua proposta di legge su quanti CDA, a quanti consigli di amministrazione può partecipare una singola persona, perché anche qui siamo... Ho presentato anche questa, lo so, ma non ce la fa, no. Mi sembrava giusto che poi vediamo sempre le stesse persone negli stessi consigli d'amministrazione, quindi un po' tra virgolette di pulizia ci vuole. Se io questa sì. è una proposta che ho appena presentato, ne discuteremo quando Ne discuteremo più avanti, magari poi anche le quote di giovani, visto come va il paese, no? Gerontocratico o geriatriocratico, però grazie intanto alla Presidente della Fondazione Belisario e deputata del PDL Lella Golfo, grazie alla coordinatrice del gruppo Donne Manager di Manager Italia Marisa Montegiove. Cosa ne pensa il conduttore? Pensa a quello che avete sentito, pensa soprattutto che chi scrive "ma insomma le donne non possono diventare intelligenti e brave per legge" vale anche per gli uomini, non è che tutti quelli che siedono nel consiglio di amministrazione siano tutti bravi e intelligenti, siamo sicuri di questo? Domani alle 17 un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.